Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fucico, siamo tornati noi di 451 Intersezioni, appuntamento ormai abbastanza regolare del lunedì sera dalle 20 alle 21. Siamo mancati purtroppo la settimana scorsa per problemi tecnico-personali, non vi sto a spiegare nel dettaglio, ma stasera ripartiamo con una puntata speciale che porta avanti un discorso già iniziato 5 mesi fa, sempre a 451 Intersezioni, un vero e proprio viaggio nel cosmo 0 a 0, potrebbe stare anche bene, effettivamente tipo una partita di calcio. No, ripetiamo, viaggio nel cosmo 0 a 0, capitolo 2, questo, isole nello spazio, così chiamato. Il percorso che abbiamo portato avanti circa 5 mesi fa era un vero e proprio viaggio cosmico dentro le musiche cosmiche, i derivati e anche progetti che partivano e che hanno come linfa fondamentale, vitale, la cosmice music degli anni 70, sia il kraut rock ma anche tutte le derivazioni cosmiche, da Klaus Schulze a formazioni storiche come anche i Tangerine Dream e tanti altri progetti che hanno attraversato la musica cosmica. L'abbiamo declinato ovviamente negli anni zero, dunque negli ultimi 10-15 anni, progetti nuovi ma anche autori che hanno iniziato la loro esperienza musicale cosmica negli anni 70 e hanno riportato in una luce differente la loro attitudine musicale negli anni zero. E stasera appunto l'abbiamo denominata Isola nello spazio, questo secondo capitolo di 451 Intersezioni. Vi ricordo anche, se siete interessati, di poter riascoltare le puntate e avere, diciamo, le tracklist degli album e degli autori inseriti in trasmissione, potete andare sempre sul nostro no blog 451frammentisonori.noblogs.org. E entriamo subito nella materia, anche dando qualche spiegazione del perché stasera abbiamo voluto di nuovo andarcene un po' via da questo pianeta, forse da questa Bologna e da questa Italia. È chiaramente causato da tutto quello che è accaduto in questo ultimo weekend, prima di tutto la manifestazione No Expo, il May Day No Expo, di tutti i movimenti nell'ambito antagonista che hanno portato avanti ovviamente la protesta in maniera anche abbastanza forte e rabbiosa a Milano e tutto quello che ne è conseguito, in più anche quello che è accaduto all'arrivo di Renzi alla festa dell'Unità, il Partito Democratico a Bologna, con degli scontri violentissimi da parte della polizia contro alcuni centinaia di manifestanti che volevano protestare nei confronti del governo Renzi. Queste sono le risposte, altro che violenza così tanto declamata da tutti gli organi, da tutti i media di regime nei confronti di 4 danneggiamenti e ben poca cosa che è accaduta a Milano. Certamente sul piano politico e tattico ci sono molte critiche che potrei fare rispetto a quello che è accaduto anche in termini appunto comunicativo e politico nelle azioni di danneggiamento avvenute a Milano, ma il problema principale è quello di evidenziare il fatto che c'è stato un vero e proprio fuoco a 360 gradi da parte di media di regime, ma non solo, anche di intellettuali, giornalisti e giornali che si definiscono di area di sinistra, addirittura di movimento, che hanno definito queste forme di protesta come mera dimostrazione di teppismo, di violenza delinquenziale e cose di questo genere. Beh, in questo senso bisogna assolutamente condannare questo tipo di approccio, soprattutto perché va a cadere nei confronti di un intero movimento che è variegato e ha molte forme di manifestare la propria rabbia e la propria opposizione a delle opere faraoniche, inutili e distruttive come No Expo, come la Expo, scusate, come la TAV e come tantissime altre cose che stanno avvenendo in questo paese. E il gioco di potere, il gioco di regime è sempre quello di costruire un'idea di buoni e cattivi all'interno del movimento, i manifestanti pacifici, i manifestanti violenti. Questo è un gioco che va solo nei confronti ovviamente del potere, del Partito Democratico, che gestisce questa dimensione repressiva e direi in alcuni modi anche fascistoide, per come i media sono allineati in maniera spaventosa nei confronti ovviamente di ogni iniziativa governativa o di potere. Questo lo dovevo dire anche perché appunto ci sono stati fermi, arresti e ci sono state anche feriti, soprattutto a Bologna nell'iniziativa contro appunto Renzi, e in questo senso è chiaro che il meccanismo repressivo sta andando sempre più in alto, ma d'altronde in una situazione di difficoltà sociale, di possibile conflitto sociale, le risposte sono sempre quelle ormai da decenni rispetto alle iniziative che partono dal basso, e noi ovviamente vogliamo prendere le distanze da tutti i personaggi che hanno cominciato a definire teppisti e violenti tout court i manifestanti sia a Milano che a Bologna. Non è così, noi siamo dalla parte dei manifestanti, noi siamo dalla parte del movimento e questo lo vogliamo assolutamente dire. Oltretutto vogliamo dare anche solidarietà a due compagni del collettivo Obo che hanno ricevuto un provvedimento di memoria fascistoide, non è certo il confino ma un divieto di dimora a Bologna per 2 anni. Due compagni che sono da tantissimi anni all'università qua a Bologna, che adesso praticamente hanno avuto un daspo come allo stadio, ma in questo caso non possono mettere piedi per 2 anni a Bologna, nelle città di Bologna, e queste sono le risposte chiaramente repressive nei confronti di qualche compagno che viene identificato e poi viene perseguito penalmente in questa maniera. Bene, era doveroso dire 2 parole rispetto ai fatti di questo weekend, di questo clima fascistoide di questo paese, e noi appunto abbiamo voluto farci un viaggio nel cosmo perché siamo abbastanza depressi, io in particolar modo, rispetto a quello che sento e vedo e leggo rispetto a quasi la totalità dei media mainstream e collegati. E apriamo il nostro viaggio nel cosmo 00, capitolo 2, Isola nello spazio, con un progetto LOSHIL che ha già attraversato un paio di volte 451, progetto nato da Scott Morgan che si muove tra techno ambient con echi anche industriali, ma anche con momenti chiaramente molto legate alla Cosmice Music. Ce l'andiamo a sentire dall'album Plume del 2006, splendido lavoro, buon ascolto e partiamo subito perché il tempo ormai è volato via. Thank you. E siamo rientrati in diretta, abbiamo fatto un mix spaziale, possiamo dire così, dall'apertura della formazione di Loschill da Plume 2006, ci siamo spostati dentro un contenitore tipico del space rock, formazione che è nata a metà degli anni 90 con dei chiari riferimenti alla cosmice music, allo space rock, soprattutto nomi importanti storici come i Cluster e Popol Vuh. Parliamo di Windy and Carl, abbiamo mixato appunto i Loschill con Windy and Carl, formazione, come ho detto poc'anzi, nata a metà anni 90, costituita da due musicisti, Carl Urgren e Windy Weber, che hanno costruito questo progetto Windy and Carl, che ha portato avanti questo discorso legato alla musica cosmica, allo space rock, con anche forti influenze della drone ambient, e hanno sviluppato diversi album. Abbiamo selezionato proprio l'ultimo album uscito nel 2012, We Will Always Be, uscito per la Cranky, e abbiamo appunto mixato una traccia, questo flusso sonoro che ricorda molto appunto i viaggi nello spazio di Windy and Carl con Loschill. E ora invece andiamo ad apprestarci a proporre un autore per la prima volta dentro 451 Intersezioni, un autore che è figlio proprio degli anni 10, il primo album uscito nel 2010, ha elaborato anche altri ben 4 album dal 2010, dunque abbastanza prolifico, praticamente un album all'anno. Abbiamo selezionato uno splendido album uscito nel 2011, The Terminal Symphony, e il progetto è René Hell, che in realtà il nome reale è Jeffrey Wisher. Prodotto questo album per la Type, un disco molto interessante che si muove dentro delle colorazioni legate alla musica cosmica, con chiari riferimenti agli anni 60-70, ma anche in alcuni momenti con dei suoni che ricordano certe sperimentazioni elettroniche, addirittura figlie degli anni 50, quei grandi sperimentatori d'avanguardia che si sono mossi dentro un'elettronica avanguardistica, con dei suoni che ora potrebbero sembrare anche un po' ingenui, un po' legati quasi a delle colonne sonore di film di fantascienza degli anni 50, ma che in realtà hanno una suggestione assolutamente unica, suoni che ancora rimanevano dentro una dimensione analogica, che poi vengono ovviamente messi in correlazione con linguaggi digitali figli degli anni zero. René Hell è molto bravo in questo e costruisce un album estremamente variegato, ricco di colorazioni differenti, che rimanda sicuramente un'idea di un cosmo particolare, quasi appunto un mondo, un'isola dentro la dimensione spaziale, ricca di suggestioni e di differenze assolutamente uniche. Ce l'andiamo a sentire questo album, una traccia che può dare un'idea, ma ve lo consiglio vivamente, The Terminal Symphony per la Type, René Hell. Andiamocelo ad ascoltare, ancora viaggiamo nei meandri dello spazio. Buon ascolto. We'll be right back. E siamo rientrati in diretta dopo il personaggio cardine, cioè il personaggio che abbiamo presentato prima di questo autore, René Hell. Ci spostiamo sempre in terra statunitense e andiamo a pescare e invece una formazione che è situata, diciamo così, a Cleveland, nata nel 2006, si tratta degli Emeralds, un progetto costituito da John Elliott, Mark McGuire e Steve Oshield, che ha elaborato un percorso assolutamente unico e originale dentro un'elettronica che si muove su una sorta di sintetizzazione sonora che ricorda e riporta varie influenze da Terry Riley e dunque da un certo minimalismo, per arrivare poi anche a formazioni che si muovono dentro la cosmic music, ma anche verso delle forme di psicadelia assolutamente unica che hanno attraversato gli anni 60-70, cioè come Tangerine Dream, ma anche ovviamente la Shaw Temple e i Popol Vuh. Formazione che dal 2006 ha elaborato veramente un'infinità di album fino ad arrivare a questo penultimo disco che stasera presentiamo, Does It Look Like I'm Here, uscito nel 2010 per l'Amego, un'altra etichetta che spesso attraversa 451 intersezioni e anche 451 frammenti sonori. E rimanendo appunto negli Stati Uniti, ci spostiamo da questa elettronica che avete appena ascoltato, un'elettronica con questi suoni estremamente liquidi, fluidi, quasi a raccontare qualche strumentazione elettronica a bordo di qualche ipotetica astronave che viaggia nello spazio, per invece arrivare a una dimensione sicuramente più dronica, con dei suoni sicuramente differenti, ma che può dare un'altra suggestione sia sonora che d'immagine rispetto a un'idea di un viaggio cosmico verso altri mondi, verso altri luoghi e forse anche verso altre ipotetiche società, sicuramente speriamo almeno migliori, ma ce lo possiamo tranquillamente immaginare a nostra discrezione, a nostra volontà, mondi migliori sicuramente rispetto a quello che ci dobbiamo sorbire in questi tempi storici, in questa cara e maledetta terra, pianeta ormai devastato e distrutto da inquinamento e speculazioni edilizie. In questo rientriamo nel discorso iniziale, quello appunto contro l'Expo, contro la TAV, contro le grandi opere distruttive che servono solo a speculare in termini economici, in termini di profitto capitalistico. Cosa volete? Noi siamo ancora molto vetero, ancora molto comunisti e ancora molto antagonisti. E andiamoci ad ascoltare, e dunque andiamo ancora ad immergersi dentro questo flusso sonoro di una formazione assolutamente unica negli anni zero, gli Emeralds, da Does It Look Like I'm Here. Buon ascolto. siamo ritornati in diretta dopo questa chicca tratta dall'album Does It Look Like I'm Here degli Emeralds, splendido album uscito nel 2010, e il nostro viaggio nel cosmo 00. Abbiamo anche stasera inserito alcuni, ovviamente, autori, alcuni album che possono inserirsi dentro questa storicizzazione degli anni zero verso questo tipo di proposizione sonora di trasmissione. L'avevamo aperto questo percorso circa 5 mesi fa con la prima puntata, questa è la seconda puntata intitolata Isola nello spazio, che cerca di dare appunto alcuni frammenti di autori di album che possono collegarsi un'idea di musica cosmica negli anni zero. Chiaramente non è esaustiva, ci sono ancora molti altri autori e progetti che sia in maniera diretta che in maniera anche indiretta possono collegarsi un'idea di musica cosmica, anche perché il discorso della musica cosmica è un discorso che dalla nascita degli anni 60-70, dalla Cosmic Music, dalla Space Rock, ha portato avanti anche delle evoluzioni e delle diramazioni anche molto distanti in realtà fra di loro, ma che sono comuni date appunto da questa idea sonora di una quasi una sonorizzazione di un cosmo e di uno spazio che gli autori e i musicisti si immaginano di colorare attraverso, soprattutto e chiaramente attraverso, suoni e strumenti prettamente elettronici, che molto sono stati abbinati all'idea fantascientifica, all'idea del viaggio nel cosmo, a partire dal capolavoro 2001 Odissea nello spazio, ma anche a tanti altri film importanti nell'ambito fantascientifico dove l'elemento della musica elettronica era sicuramente decisivo. C'era anche un'elettronica chiaramente sperimentale, avanguardistica, connessa molto alla musica contemporanea, le prime sperimentazioni addirittura degli anni 30, 40, 50, che hanno avuto anche delle diramazioni che in parte abbiamo inserito nella prima puntata Viaggio nel Cosmo 00 di 5 mesi fa. Stasera ci siamo un po' più concentrati verso un'idea sonora di Cosmic Music legata al flusso, un'idea anche minimalista, ridondante, che possa raccontare, quasi narrare un viaggio nel cosmo a livello quasi filmico. E chiudiamo il nostro percorso di stasera con un'altra formazione che ha attraversato già 451 e in particolar modo 451 frammenti sonori, ma ancora mai 451 intersezioni. Si tratta del progetto Black to Com, progetto anche questo nato a metà degli anni zero, intorno al 2006, costituito da Mark Richter, che ha elaborato diversi album fino ad arrivare proprio all'ultimissimo album uscito qualche mese fa, sempre per la Type, Black to Com, proprio omonimo, uscito alla fine del 2014. Ci andiamo a sentire una traccia che dà l'idea appunto di un flusso sonoro, di un suono con alcuni momenti in cui si percepisce la voce trattata, che lavora quasi in una sorta di eco tribale, quasi primordiale, umano, che si collega appunto a questo flusso sonoro cosmico, quasi a collegare un'idea delle origini umane della Terra, dei pianeti e del cosmo con un'idea invece futurista legata in prospettiva a un futuro possibile, forse anche migliore del presente che ci stiamo vivendo. Vi lascio dunque con Black to Com e ovviamente vi ricordo che 451 intersezioni ritornerà sempre su Radio Città Fujiko lunedì prossimo dalle 20 alle 21. Vi lascio ovviamente con questo splendido lavoro, con questo splendido brano, fatevi un viaggio anche voi e ovviamente dopo con la programmazione canonica di Radio Città Fujiko dopo le 21 di sera. Buonanotte, ciao!